Ed ora vorrei pregare il consigliere Gobbi di farci la cortesia di leggere il breve documento del ricordo di Bruno Kessler inviatoci da Norberto Bobbio. Si può parlare così. Vi prego di scusare le imperfezioni inevitabili che nascono nel leggere cose e parole scritte da altri. Ci eravamo incontrati le ultime volte al Senato, durante la nona legislatura. Io senatore un po' per caso e ad ogni modo dilettante, lui invece democraticamente eletto nel suo Trento, da tempo impegnato con serietà e senso di responsabilità e con una solida competenza di amministratore nel governo della provincia trentina. Rivedendoci dopo tanti anni, rievocammo come era naturale il tempo ormai lontano. Erano passati circa 20 anni della mia partecipazione alla vita della giovane università, di cui egli era stato l'ideatore e colui che più tenacemente ed efficacemente ne aveva guidato la realizzazione. La bufera sessantottesca era un episodio, anche se spesso vissuto drammaticamente, superato e ne potevano parlare con un certo distacco. L'Università Trentina era stata investita dalla contestazione proprio nel momento delicato e difficile del trapasso dopo il riconoscimento da parte dello Stato, ma ne era uscito da tempo senza troppe ferite. Per chi non lo sapesse, io ero stato nominato, insieme con Marcello Boldrini e Nino Andreata, membro del triumvirato che doveva governare la nuova università sino a che non si fosse costituito un regolare consiglio di facoltà. Come membro di questo comitato facevo parte del consiglio di amministrazione, presieduto appunto da Bruno Kessler, presieduto con polso fermo ma senza atteggiamenti autoritari, anzi con vivo senso delle difficoltà oggettive che richiedevano buona conoscenza della situazione di fatto e intelligenza nel giudizio, la virtù per eccellenza dell'uomo politico che è la prudenza, intesa come sempre fu intesa nei classici del pensiero politico, come saggezza nelle cose pratiche, nella vita attiva contrapposto alla vita contemplativa. Il rapporto tra il Consiglio di amministrazione e il Consiglio di facoltà, che toccò a me presiedere dopo la morte del professor Boldrini, furono e non potevano non essere, dati i tempi talora di conflitto, sia per la complessità dei problemi che l'università aveva appena nata doveva risolvere, sia per la turbolenza degli studenti sempre in agitazione, furono appunto una turbolenza non sempre il Consiglio di facoltà riusciva a domare, e che il Consiglio di amministrazione non poteva lasciare andare al di là di un certo limite, oltre il quale la situazione sarebbe diventata ingovernabile. Ricordo discussioni anche accese, perché non sempre i nostri punti di vista per il nostro diverso ruolo coincidevano, ma sempre nel rispetto reciproco. Era un rispetto derivato dal fatto che ognuno di noi si rendeva perfettamente conto delle difficoltà obiettive della situazione, che la novità di un'università senza precedenti nel nostro paese e la contestazione studentesca, che aveva talora delle buone ragioni, ma sostenute con metodi inaccettabili, avevano creato. La nostra missione finì quando ormai era venuto il momento di disciplinare l'afflusso degli iscritti, che era diventato per l'università e anche per la città insopportabile. Fu per noi, docenti che eravamo in contatto diretto con gli studenti, pronti sempre a riunirsi in assemblee di protesta, una decisione che prendemmo convinti della sua necessità, ma anche con la consapevolezza che avrebbe dovuto essere occasione di nuove agitazioni. Toccò a me spiegare, nell'ultima assemblea, cui partecipai prima di lasciare l'incarico di preside del Consiglio di Facoltà, le decisioni che erano state prese. Non ci furono, come si poteva prevedere, reazioni scomposte. Forse da allora ebbe inizio la quiete dopo la tempesta. Ho avuto più volte modo di dire, e lo ripeto volentieri in questa occasione, che ho serbato un ottimo ricordo delle giornate, lunghe e spesso faticose, trascorse nella vostra città, grazie all'indole gentile degli abitanti, grazie ai buoni rapporti stabiliti con i colleghi, quasi tutti molto più giovani di me, la cui solidarietà di fronte al non sempre docili contestatori fu fortissima e ci permise di sopportare sedute di facoltà che duravano talora dal mattino alla sera. Grazie alla conoscenza che diventò col passare del tempo familiarità con Bruno Kessler, di cui rievoco con rispetto e commozione le qualità umane, il senso del dovere, la volontà di far bene le cose che si debbono fare, il forte impegno civile del buon democratico. La prima volta che ci incontrammo mi disse che era stato studente della facoltà di giurisprudenza di Padova, dove allora io insegnavo, aggiungendo che non aveva potuto frequentare assiduamente le lezioni e quindi non aveva mai avuto molta dimestichezza con i professori. Tanto più grande la commozione, quanto più innaturale che sia io, il professore, a ricordare l'antico allievo morto anzitempo, lasciando in coloro che lo hanno conosciuto un vivo ricordo e un grande rimpianto. Firmato Norberto Bobbio.